per una semplice ragione, perché chi sta in carcere non sente il sostegno, la solidarietà forte, fattiva dall'esterno. È una condizione fondamentale per organizzare diciamo, le proteste in carcere, e per organizzarsi in carcere, per organizzarci è necessario un appoggio esterno. Considerate che chi sta dentro sa che ogni sua attività, ogni suo momento di vita, diciamo di lotta, rimarrà nel silenzio di quel carcere, a meno che non ci siano appunto situazioni esterne che lo amplificano, lo fanno conoscere fuori. Anche la comunicazione tra carcere e carcere non può passare che attraverso l'esterno, quindi una grossa solidarietà esterna è una condizione sine qua non per lo sviluppo dell'organizzazione interna e delle lotte. Di atti di ribellione ve ne sono tanti, ma spesso individuali. Non c'è ancora, cioè non c'è più la forza di organizzarsi, anche perché le condizioni, come abbiamo più volte detto, che il governo ha messo in campo per come dire, punitive nei confronti di chi non osserva la cosiddetta buona condotta, sono pesanti. E oggi con gli ultimi decreti fatti per svuotare un po' il carcere dopo le sanzioni della Corte Europea hanno portato a 5 mesi la liberazione anticipata, ossia lo sconto lo sconto per ogni anno di carcerazione. Vengono tolti 5 mesi, quindi fai un anno, è come se avessi fatto un anno e 5 mesi, però ci deve essere appunto la buona condotta, cioè questo sconto viene dato soltanto dopo che la commissione che osserva il trattamento dei detenuti, il loro percorso, dice va bene. Quindi chiaramente se uno partecipa a proteste esplicite perde questi 5 mesi. È un sacrificio che si può fare, l'hanno fatto in passato, lo faranno in futuro i detenuti e le detenute, ma ovviamente ci vuole bisogna sentirsi appoggiati, affiancati da situazioni esterne. Va bene. Allora, dice, è successo questi giorni, però proprio oggi sui giornali c'è una vicenda abbastanza interessante di cui vi parliamo tra un attimo. Allora, intanto ciò che succede è che è venuto fuori un caso abbastanza eclatante, anche se i casi sono tanti, di un uomo di 35 anni che è stato tenuto 11 anni in carcere e dopo questi 11 anni in carcere è venuto fuori che era totalmente innocente. Era stato accusato da diversi pentiti, addirittura chi dice 6, chi dice 7, insomma, tuttavia era invece del tutto innocente, quindi non è uno sbaglio, è proprio un modo di procedere errato. Da tempo la giustizia italiana dà troppa importanza ai pentiti, contano più i pentiti che non le prove costruite da lavoro di indagine, anche perché i meccanismi giudiziari, li vedremo dopo, no? Tendono a costruire pentiti, cioè una persona, un detenuto è stato condannato anche a molti anni, fa il collaboratore di giustizia, ha degli sconti favolosi, enormi, e quindi è indotto a fare questa cosa, dicendo anche cose che possono non essere vere. Eppure però spesso la magistratura prende per oro colato, per verità, queste buttade del pentito, del collaboratore di giustizia. Così è successo a quest'uomo Mirko di Gela in Sicilia, che appunto era stato accusato, e qui è venuto fuori questa cosa enorme, no? 17 anni è durata tutta la vicenda giudiziaria, di cui 11 in carcere, e poi è venuto fuori, quindi metà vita gli hanno preso, che era veramente innocente, non c'entrava niente. E qui il risarcimento, ne abbiamo parlato, ricordate che è stato sancito questo risarcimento per carcere, per chi viene buttato in carcere e non ha non per sua responsabilità, ingiustamente, come si dice, carcerazione ingiusta, quindi dovrà sborsare lo Stato, qui non so quanto, alcuni centinaia di migliaia, ma questo non ha importanza, perché qualunque sia la cifra non si possono ripagare gli 11 anni di galera dati a una persona innocente, anche se fossero migliaia. Però questo fatto grosso, eclatante, 11 anni di carcere appunto inutili, e il carcere è sempre inutile, in questo caso però era proprio innocente, ha fatto venire fuori il problema delle carcerazioni ingiuste, ingiuste dal loro punto di vista, parliamo nel senso che per così come la giustizia e così come l'opera del magistrato, certe persone non dovrebbero andare in galera, invece ci vanno. Per errori oppure un malfunzionamento dovuto al fatto, come dicevo prima, l'eccessiva importanza che si dà ai pentiti, il meccanismo per avere sconti di pena, che solo se tu fai il pentito, sei il collaboratore di giustizia, quindi se dai dei nomi, la possibilità di uscire dal 41 bis, questo regime tremendo, c'è solo quella possibilità di uscire dal 41 bis, di fare dei nomi. È un po' il meccanismo, chi ha letto e si è divertito si fa per dire, si è arrabbiato leggendo, però a distanza di 400 anni si può anche ridere, i processi per stregoneria, ricordate, ne abbiamo letti, perché nel 500-600 in questa Europa e anche nel Nord America si scatenò la ridda a cercare le streghe, perché bisognava trovare un capro espiatorio per il malessere in quel periodo di trapasso tra il sistema di produzione feudale, il sistema di relazioni sociali feudale ormai in disfacimento, e un sistema che ancora non si affermava, quello diciamo del commercio, del mercato, della produzione capitalista, quindi durante quel successo dei disastri, carestie che si susseguivano male, e bisognava trovare il capro espiatorio, e vennero trovate le streghe, e quindi ci fu la caccia alle streghe, da una parte, dall'altra parte le religioni vedevano il calare del consenso, quindi dovevano cercare l'eretico, insomma tutta questa canea messa in moto meccanismi giudiziari che attraverso la tortura facevano parlare la gente. Per sottrarsi alla tortura c'era solo un modo, dire confessare. Non ha importanza se era vero o finto quello che confessavi, dovevi dire quello mi ha imposto di fare questa cosa, e così uscivi dalla tortura, però ci mandavi sotto altra gente. E questo è il meccanismo. Sono passati 400 anni, ma forse c'era anche prima, probabilmente questo del 500-600 diciamo è famoso perché ci sono bei libri di letteratura, ma anche di saggistica, che raccontano questo fatto che pesa ancora sulla cultura europea e nordamericana, diciamo, non che non ci fosse in altri paesi, anzi in altri paesi era anche peggio, che so, per esempio pensiamo all'India che bruciava interi villaggi perché c'era qualche cosa che non andava, e un po' tutto il mondo era così alla caccia del capro espiatorio per giustificare i disastri dovuti, il malessere, il malfunzionamento delle società dovute spesso a una difficoltà proprio politica di gestire situazioni complesse che venivano a formarsi grazie appunto all'aumento del numero della popolazione. Ma comunque per spiegare i motivi ce ne sono tanti, il problema è che appunto il meccanismo era questo: io smetto la tortura se tu fai i nomi di qualcun altro. È uguale, sono passati 400-500 anni ma pare che la situazione non è cambiata. Per uscire dal 41 bis bisogna fare i nomi di altre persone che a loro volta dicendo quello lì è ancora più mafioso di me o più terrorista di me, eccetera eccetera, e quindi manda in galera altra gente che andranno al 41 bis e a loro stessi, lo stesso se faranno i pentiti, usciranno da quella situazione. Insomma è una catena maledetta che manda in galera gente. Dunque, però, per dirla tutta, il vice segretario della giustizia, il vice ministro, il segretario di Stato, il vice segretario di Stato della giustizia, vice ministro Enrico Costa, ha detto, ci ha dato i numeri sono questi. Allora, nel 2014, cioè l'anno scorso, lo Stato ha pagato 35 milioni di euro, i virgola 2 che abboniamo, 35 milioni di euro per 995 provvedimenti ingiusti, cioè 995 persone sono state incarcerate ingiustamente, e quindi poi non che solo 995 sono state incarcerate ingiustamente, di 995 persone incarcerate è venuto fuori con eclatanza, con chiarezza, che erano del tutto estranei alla vicenda e però erano stati buttati in carcere e quindi secondo la legge vanno risarciti, e lo Stato ha pagato 35 milioni di euro, che non è una stupidaggine, ma soprattutto è grave i 995 persone che sono state sbattute in galera, nonostante invece se con un po' più di attenzione si poteva capire che erano innocenti. Ma quante altre persone avranno seguito? Cioè, non è ancora stata dimostrata la loro innocenza, e per alcuni sarà difficile dimostrarla, però insomma, capite, questi sono numeri spaventosi. E nel 2005 ci siede sempre il signor Enrico Costa, vice ministro della giustizia, è il vice di Orlando, ci dice che nel 2015, i primi 7 mesi, quindi fino a luglio, le riparazioni effettuate sono state 772, le chiamano riparazioni, mostruosità andrebbe il termine in italiano corretto, perché insomma, se uno capisco che i ministri oggi sono fatti un po' così, come dire, secondo la testa che hanno in tasca, però almeno usare l'italiano corretto dovrebbe essere quasi un obbligo per tutti, ma maggior ragione per i ministri. Dire che chiamare queste persone, incarcerare giustamente e poi ovviamente pagate riparazioni è un po' sbagliato, è un po', cioè non è italiano, significa che il vice ministro Costa non conosce l'italiano, perché doveva dire nei primi 7 mesi del 2015, ossia da gennaio a luglio, 772 persone sono state incarcerate ingiustamente per errori, orrori della giustizia. Questi orrori, queste barbarie le abbiamo ripagate con 20 milioni di euro, non riparazioni, perché con i soldi non ripari la vita che hai tolto a delle persone che sono state buttate in carcere. Chiaro questo. Ma la cosa ancora più drammatica è che invece di dire bene, dovremmo quindi rivedere con attenzione, dovrebbe dire un ministro, un viceministro, un parlamentare, dovremmo vedere con attenzione l'iter, i processi, il procedimento con cui si manda la gente in galera, quindi dare meno attenzione ai pentiti, verificare se un pentito dice tizio ma è che ha fatto questa cosa qui, bisogna verificare prima di prendere per oro colato le parole del pentito, quindi bisogna abbassare il livello di come dire di verità rivelata dei pentiti. Invece no, si dice soltanto, pensate come la stanno mettendo, bisogna per ovviare questo gap, capito? Non un orrore, anche qui ha fatto il signor Costa, ha fatto uno sbaglio, non conosce le parole italiane, peccato, mi dispiace. Vabbè, gli manderemo qualche libro a leggere, perché non è un gap, è un orrore mandare la gente in galera quando risulta innocente. Quale gap? Comunque, dice, dovrebbe il Parlamento stabilire un'ordinanza per dare responsabilità ai titolari dell'azione disciplinare. Cioè, non dice dovremmo, il Parlamento, che è quello che fa le leggi, dovrebbe rivedere tutto l'andamento, l'iter del percorso processuale, dando meno importanza ai pentiti e mettendo al primo posto prove riscontrate, eccetera, eccetera. Ma invece bisogna dare la responsabilità ai titolari dell'azione disciplinare, cioè al magistrato che ha seguito, che ha mandato in galera quella persona. Quindi facendo voi pagare al magistrato l'errore fatto. Come vedete, di un orrore si fa un altro orrore, non perché io sono contrario al fatto che il magistrato se sbaglia deve pagare, ma non è col fatto che se sbagli devi pagare che si risolvono gli orrori, in questo caso sono orrori, ma semplicemente, ma ancora, cioè, una persona intelligente, capisco che in quest'ambito qui di governanti parlamentari non me ne sono tanti, però è ovvio che significa rivedere le norme processuali. Per esempio, dare appunto meno importanza ai pentiti. Questa cosa, che è ovvia e banale, dovrebbero dirla tutta. È ancora in diretta, riprendiamola. Dunque, un'altra cosa è scoppiata in questi giorni, non che è stata scritta in questi giorni, è vecchia, è stata scritta nel maggio scorso, nel maggio del 2015, e però il dibattito è iniziato nel 2013, è iniziato quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato lo Stato italiano per come teneva le carceri, mettendo quella multa salata e imponendogli una riduzione del sovraffollamento, e dall'altra parte sanzionandola per come conduceva i processi. Quindi la critica che abbiamo fatto adesso un attimo fa ai processi che mandano in galera gli innocenti l'ha fatta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, come dire, un po' gente che conta più di noi, quindi dovrebbe almeno essere ascoltata. In realtà su questo terreno un po' è stata ascoltata, perché provvedimenti diciamo di poco conto, però per trasformare molte situazioni di reclusione in tramuraria, cioè in carcere, in misure alternative, sono stati messi in piedi ben tre, e con quello riassuntivo, quattro provvedimenti cosiddetti svuota carceri sono stati fatti a seguito di questa sanzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non a seguito di un dibattito sociale che ha interessato le forze politiche, perché questo dibattito non c'è stato, un'assenza mai vista nel paese Italia, che pure sulla giustizia, sul carcere, sull'andamento dei processi nei decenni scorsi ha fatto un dibattito importantissimo. Voi pensate che ancora in molti paesi europei, per esempio il Nord America, ma anche il Canada, ma anche l'Australia, ma anche tanti paesi europei, si studia ancora nelle università il dibattito, non le conclusioni che non sono state come se si auspicavano, il dibattito che c'è stato in Italia che riguardava la chiusura dei manicomi, quindi la critica alla coercizione, al controllo, alla segregazione psichiatrica e la critica al sistema carcere. Questo dibattito, che fu ricchissimo negli anni 70 e anche 80, è studiato dappertutto, perché è stato importante, tutti studiano per vedere che cosa, diciamo, perlomeno nelle università, per capire laddove andrebbe modificato questa cosa. Poi che lo faranno o meno, lì poi subentra il politico, cioè i parlamentari, il governo, però intanto nell'università hanno preso come elemento di studio il dibattito intorno alla chiusura dei manicomi, alla fine del controllo psichiatrico, al fatto che la psichiatria non è una scienza e che è solo un sistema di reclusione abbastanza barbaro, così il carcere, così come il sistema processuale è deficitario, nel senso che dà troppa importanza, già allora si diceva, al pentito, cioè al cosiddetto testimone, invece che alle prove verificate, insomma tutta una serie di cose così, il rapporto tra difesa e accusa, tutto un dibattito molto ricco e importante che da qualche parte si studia. Però l'unico luogo dove non si studia questo dibattito avvenuto in Italia su queste situazioni repressive, no? Psichiatriche e carcerarie, è in Italia, perché appunto qui invece il nostro passato lo cancelliamo per paura, perché hanno paura questi cialtroni che stanno qui. Dunque è venuta fuori, quindi, questa cosa di che è scoppiata in questi giorni e sta sui giornali di quest'oggi, è stata elaborata nel 2013, quando il ministro della giustizia era Cancellieri, ma anche, non solo perché abbia raccolto appunto un dibattito che non c'è stato in Italia, la sinistra in questo è crollata miseriamente, è diventata una formazione veramente di destra, pesantemente di destra, sui punti non tanto per fare tutto, come dire, la radiografia, ma sui punti centrali che sono questi, no? La giustizia è un punto centrale, se uno diventa un questurino chiaramente perde un po' della visione grandiosa. Insomma, il problema è stato imposto dalla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU. Bene, che cos'è questo? Il problema è che in Italia c'è l'ergastolo, già questa cosa stride con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che pure lo Stato italiano ha firmato. Però sull'ergastolo, perché sia la Costituzione sia la Convenzione dei diritti dell'uomo dice che le pene devono tendere alla rieducazione, non devono essere trattamenti disumani e degradanti, e soprattutto devono avere un termine, devono dare un punto d'arrivo, perché ogni persona, qualunque cosa abbia fatto, deve avere una speranza che un giorno finirà la pena e che quindi potrà ricominciare una vita. Questo è il quadro, ma non è solo della Costituzione italiana, non è soltanto della Convenzione dei diritti dell'uomo, è un po' il punto d'arrivo di due secoli, tre secoli di battaglie intorno al tema della giustizia che hanno quasi tutti i paesi cosiddetti democratici nella propria Costituzione. Ce l'ha anche l'Italia, però l'Italia poi c'ha l'ergastolo, retaggio antico, vecchio, ribadito dal periodo fascista, e che non sono riusciti a togliere. Però poi se la cavavano così quando la Corte Europea sanzionava dicendo: perché avete l'ergastolo? Dovreste toglierlo, non è in linea con... E loro dicevano: ma l'ergastolo non è un fine pena mai, come invece è scritto chi è stato condannato all'ergastolo sa che c'ha una la condanna dice fine pena mai, col mai sottolineato in rosso, tanto perché non... Però poi nella concretezza, dopo 26 anni di carcere, si può chiedere la condizionale, di passare gli ultimi anni in condizionale. Una volta te lo rinviano, poi te lo bocciano, poi te lo rinviano, però dopo la terza, quarta volta è possibile che accedi alla condizionale. Quindi fai 26 anni, 27, 28 più 4 di condizionale e finisci la pena. Quindi 30, 31, 32, 33 anni, in qualche modo, dice, quindi c'è, e quindi se la cavavano così. Poi però dimenticavano di dire, perché hanno fatto i furbetti proprio cialtroni, perché poi queste cose non è che le sanno un po', le sappiamo tutti, cari signori che volete fare i furbi. Il problema è che in Italia c'è un articolo che si chiama 4 bis dell'ordinamento della riforma del 1975, di cui appunto ricorrono i 40 anni, la 354, che è del luglio 75, è quella che riformò un po' tutto il quadro, e che diceva appunto l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, diceva che introduceva l'ergastolo ostativo, ossia per particolari reati viene dato questo articolo, il 4 bis, che significa divieto assoluto di utilizzare i benefici che tutti gli altri condannati hanno, ossia liberazione anticipata, liberazione condizionale, permessi, riduzione di pena, semilibertà, tutte le misure alternative, eccetera, eccetera. Tutto questo è vietato. Quindi chi è condannato all'ergastolo ostativo, sia al 4 bis, entra in carcere e ci esce solo con le gambe in avanti, come si dice a Roma, sia morto, perché non c'è altra possibilità di uscire. Questa cosa, questa è veramente, è contro la Costituzione, contro la Corte dei diritti dell'uomo, e quindi allora nel 2013 la Corte europea lo scrisse che tra tutte le cose che non andavano, l'ergastolo ostativo è una cosa non solo orrenda, schifosa, abietta, reazionaria e fascista, ma anche contraria agli ordinamenti europei. Piaccia o non piaccia, non che gli ordinamenti europei siano il massimo, fanno abbastanza schifo, ma in Italia appunto siamo sotto lo più schifo dello schifo. Questo è il quadro, non tanto per essere chiari. Bene, a quel punto quindi la ministra di allora, la Cancellieri, mise su una commissione per rivedere questo, per togliere questa impossibilità, per rivedere le norme che vietano totalmente, che precludono i benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo con l'articolo 4 bis, che significa reati particolarmente efferati, quindi mafia, terrorismo, però anche cose che vengono attribuite così, basta, la dicitura è particolarmente efferati. Quindi i giornali, falsando completamente, dicono che al 4 bis ci sono soltanto i mafiosi, cosa che non è vera, ma i giornali che dicono le bugie, questo lo sanno tutti, è la normalità. E comunque questa cosa è partita tra poi vi leggiamo l'incipit del disegno di legge, appunto, che poi questa commissione ha lavorato nel maggio di quest'anno, ha buttato un disegno di legge che adesso il ministro Orlando lo vuole, e anche d'accordo col governo, perlomeno d'accordo con Alfano e altri, vogliono metterlo in discussione, e possono cavarsela anche con un decreto, perché queste questioni della giustizia in genere si fanno con decreti, poi questo governo ha fatto tutto con decreto, per cui comunque a questo punto è scattato l'allarme. Chi sono quelli che sono partiti? Un po' tutti. Allora, chi è tra i giornali, quelli che sono in all'avanguardia di questa volgarità reazionaria, fascistoide, è il Fatto Quotidiano. Si dispiace, ma su queste cose il Fatto Quotidiano è veramente reazionario. C'è un articolo oggi, su quello di oggi, no, di ieri, scusate, ma di ieri, quello di ieri, c'è un articolo di Giuseppe Lo Bianco che dice, pensate, inizia così, no? La pazza idea del governo di eliminare l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, così potrà uscire anche Totorina, e lo fa dire a Franco Roberti, che è il capo, il procuratore capo dell'antimafia, così potrà uscire anche, ovviamente non è un falso clamoroso, perché non è così. Il titolo di questo disegno di legge dice queste parole: revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, che poi in concreto si chiama appunto quelli che hanno il 4 bis, ossia volgarmente chiamato l'ergastolo ostativo. Questo articolo di Bianco è orribile da tutti i punti di vista, dice appunto usciranno tutti i mafiosi, cioè che l'ha messo lì. In realtà c'è invece all'interno di questo disegno di legge c'è una cosa che dice, una clausola che dice, salvo i casi, quindi viene revisionata l'impedimento ad avere i benefici, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità, e in particolare per le condanne ai delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Ma soprattutto il disegno di legge dice che potranno essere tolti gli impedimenti all'accesso alle misure, ai benefici, se viene comprovato che non vi è più collegamento tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza. Questo quindi è l'elemento centrale. E vabbè, è una cosa tremenda come è venuta fuori, no? Tutti a urlare il Fatto Quotidiano, ma anche i deputati del 5 Stelle, da quanto dicono i giornali, poi non so se sia vero o meno, hanno blaterato cose reazionarie mai viste in questo paese. Hanno scavalcato l'estrema destra nel dire: beh, oddio, escono tutti i mafiosi, è una vergogna, il carcere invece va come dire, indurito, cioè una cosa vergognosa. Oddio, questo è il Movimento 5 Stelle, non si sa che siano né carne né pesce. Sicuramente dentro quella compagine ci sta un blocco di super reazionari che sono veramente più a destra di Fratelli d'Italia, vergognosamente di destra sono. Vabbè, questo è più o meno il quadro, vedremo. Io, se mi date un attimo di tempo, vi leggo l'incipit del disegno di legge approvato, così avete le prove di quello che si dice. Allora, eccolo qua il disegno di legge. Proposta di legge. Vabbè, qui tutti i presentatori. Modifica gli articoli 4 bis della legge 26 luglio 75, quella che dicevo, la riforma, la riforma che cambia l'ordinamento penitenziario da quello fascista a questo, che non è un granché, però perlomeno non era come quello fascista che aveva i giornali tagliati. Considerate che la liberazione, ci dicono gli storici, è avvenuta nel 1945. Eppure dal 45 al 75, ossia per ben 30 anni, nelle carceri italiane dello Stato democratico e repubblicano italiano si è tenuto ancora l'ordinamento penitenziario del regime fascista, tanto perché sia chiaro, ci sono avute lotte, rivolte, eccetera. Comunque, modifica all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 75 numero 354 e numero 2 del decreto legge 13 marzo 91 152, convertito con legge del 12 luglio 91 la 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti internati che non collaborino con la giustizia, perché anche qui, anche come il 40, il 4 bis è l'ergastolo ostativo, cioè non si esce più, non si hanno benefici, non si è... Il 41 bis è il regime penitenziario proprio in cui vengono buttati quelli a cui viene applicato il 4 bis. Il 41 bis è un regime simile a come era una volta l'articolo 90, ossia nessuna socialità, non puoi ricevere quasi niente dall'esterno, ultimamente hanno tolto anche la possibilità di ricevere libri e altro materiale scritto, e su questo adesso si sta sviluppando una campagna, ne parleremo la prossima volta, perché insomma è assurdo che non 23 ore in cella sono costretti questi in 41 bis senza poter manco leggere i libri, è veramente più che una tortura. E insomma, quindi il 4 bis è, diciamo, il marchio che ti mettono in fronte perché hai fatto reati particolarmente odiosi e deprecabili, sei un pericolo per la società, e quindi io ti metto poi in regime particolarmente duro e isolato che è 41 bis. Questo è il quadro. Adesso vogliono cambiare il 4 bis, che permetterebbe il cambio anche del 41 bis, perché se a qualcuno viene tolto il 4 bis è molto probabile che gli venga tolto anche l'internamento nel regime 41 bis. Allora, qui dice, allora intanto è del 4 maggio 2015 questo disegno di legge, quindi come avevo detto di qualche mese fa, però adesso sembra che venga messo in discussione. C'è un'ostilità da parte di gran parte dei giornali forcaioli, che sono più o meno tutti i giornali sono forcaioli, tranne forse il Manifesto, e finisce lì, veramente sono tutti brutti, per questo si è creato questo clima irrespirabile in questo paese. Insomma, la presente proposta di legge si basa per la gran parte sulla relazione elaborata, dice l'incipit, onorevoli colleghi, eccetera, eccetera, dell'apposita commissione ministeriale istituita dall'allora ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri per elaborare proposte di interventi sul tema del sistema sanzionatorio penale, con decreto ministeriale 10 giugno 2013 presieduto dal professor Franco Palazzo, ordinario eccetera eccetera dell'università eccetera eccetera, approvata all'unanimità il 4 ottobre e trasmessa all'ufficio CER. Teso alla revisione della preclusione assoluta all'accesso di benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all'articolo 4 bis, comma 1 della legge 26 luglio 75, la 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà, per il solo fatto della loro mancata collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58 ter della medesima legge. Cioè il 4 bis ci si rimane finché, se una volta che ti hanno applicato il 4 bis e quindi regime 41 bis, marchio 4 bis significa regime 41 bis a tutt'oggi, fino a che non, se dovesse approvare questo disegno di legge, ma non è ancora approvato, significa che tu puoi uscire da quel regime soltanto se fai il collaboratore, cioè se diventi un pentito e mandi in galera altra gente, per lo più innocente, che poi dopo anni di galera verrà riconosciuta innocente e quindi rimborsata con spese dello Stato, con i soldi nostri, fa quelle spese, non è che ce le mettono loro, e quindi va avanti così. Allora qui dice, questo è lungo, se ve la volete, se la potete cercare in internet, si chiama appunto proposta di legge, modifica gli articoli, battete, no? Sulla tastiera, modifica gli articoli 4 bis della legge 26 luglio 75 numero 354, e vi viene questa proposta di legge che potete leggere tranquillamente. Questo è quello che dice, per appunto, che l'elemento per rivedere, intanto parla anche qui, allora il fatto sa, come, vabbè, ovviamente qui i punti non ci stanno mai, vediamo da dove ripartiamo. Allora, già che questa limitazione, che già di per sé pone seri problemi di costituzionalità sotto due profili: il principio rieducativo e il divieto di trattamenti contrari al senso d'umanità, entrambi sanciti dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, quest'ultimo ribadito anche dall'articolo 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, CEDU, norma avente rango subcostituzionale per effetto dell'articolo 117 primo comma della Costituzione, compatibile con gli standard richiesti dalla stessa Convenzione Europea. Cioè il problema è questo, come sapete, poiché la Costituzione dice delle cose che sono il quadro generale all'interno delle quali dovrebbero svilupparsi le leggi, se alcune leggi non tengono conto di questo quadro dettato dalle norme costituzionali, vengono dichiarate incostituzionali e quindi abrogate. La stessa cosa vale per le convenzioni europee o internazionali che vengono fatte, se vengono fatte proprie dallo Stato italiano. In questo caso è stata fatta propria dallo Stato italiano e quindi le norme della Convenzione europea, come se fossero un appendice della Costituzione, questo dice più o meno, quindi non possono essere trasgredite. Poi ovviamente tante cose sono trasgredite, anche il reato di devastazione e saccheggio, ma non è un problema delle norme italiane. Per esempio il testo unico delle leggi della pubblica sicurezza e anche le norme penali, c'era il sistema penitenziario, tante cose sono in violazione della Costituzione o della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, però rimangono lì finché non c'è una sentenza chiara e esplicita della Consulta, ossia della Corte Costituzionale, che li divieta. Ci vuole un ricorso alla Corte Costituzionale e questa poi si riunisce ogni tanto e dichiara questa è incostituzionale. Ma anche quando l'ha dichiarato, per esempio, la legge Fini-Giovanardi è stata dichiarata incostituzionale, quella sulle droghe leggere, però vige ancora, non dovrebbe essere più possibile essere arrestati in base alla Fini-Giovanardi, però e dovrebbero essere stati scarcerati tutti quelli che stavano in carcere per la sola Fini-Giovanardi, però l'Italia è il paese dei però, lo sapete, o di Pulcinella, secondo come preferite. Quindi sì, questo però richiama appunto sia la Costituzione che il CEDU, che dicevano che questa cosa non va bene, questo 4 bis non andava bene. È assolutamente necessario che dopo un lungo periodo di detenzione debbano prevalere le esigenze umanitarie per queste persone in 4B, ponendo un limite temporale assoluto alla pena dell'ergastolo, che in caso di reato ostativo, ai sensi dell'articolo 4B della legge, lo rende ineluttabile e perpetuo. Questo dice, cioè dice non si può, ogni pena deve avere un fine, ce lo dice la Costituzione, ce lo dice la Corte Europea, quindi noi siamo un po' fuori da grazia, però come avete visto i giornali tutti oggi sul Fatto Quotidiano, se vi divertite a prenderlo, è brutto dare i soldi a questi cialtroni, però se lo volete prendere c'è Travaglio, che è il direttore, che dice, parla di questo ovviamente, no? Qui si fanno le leggi a favore dei grandi capi boss mafiosi, quando invece qui vabbè, a parte la miseria, la vergogna di quell'uomo, veramente non so dove comunque. Quello che dice questo signore Lugio, non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, però ve lo potete leggere, dice appunto che questi benefici, invece la possibilità di godere dei benefici, andrebbero ripristinati se viene provata il non collegamento del detenuto in 4 bis con l'organizzazione di appartenenza. Siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Ecco, se siano stati acquisiti questi elementi, va sicuramente tolto il 4 bis. Questo io. No, questo è un po' poi sotto, questa è la preluzione molto lunga, poi ci stanno alcuni articoli, verrà modificato nei passaggi parlamentari oppure nella commissione, però se ve lo dovete leggere, articolo 1, eccetera, eccetera, al comma 1 bis, questo è il primo articolo, all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 75 354 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni. Al comma 1 bis sono aggiunte infine le seguenti parole: è altresì nei casi in cui risulta che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti diversi dalla collaborazione medesima che permettono la concessione dei benefici citati, e cioè quindi si aggiunge questa cosa qui, cioè non è necessario, non è obbligatorio che tu devi fare il pentito per uscire al 4 bis, perlomeno così vogliono dire con questa legge, necessario, è possibile che tu dimostri che appunto sono cessati i legami con l'organizzazione di provenienza. Questo è quello che è esploso questa settimana. Voi direte, molti che ci ascoltano dalle carceri, non ci interessa, perché non è che tutti sono quelli che sono condannati a 4 bis non possono ascoltare questa radio, perché hanno, tra le tante limitazioni che hanno, tutte le limitazioni, è anche quella di ascoltare la radio, e però altri hanno, a noi che ci interessa. Attenzione però, questa cosa, il 41 bis, il 4 bis, l'ergastolo, riguardano tutti e tutte, ma proprio tu, anche quello che è entrato per fare 3 mesi, un mese, pochi giorni. Perché? Perché il sistema penitenziario è come una piramide, il punto più alto caratterizza tutto il resto. Avendo al punto più alto l'ergastolo, e a cui si è aggiunto l'ergastolo ostativo, cioè che tu non esci più pena perpetua, cioè esci soltanto lungo su una lettiga morto, quindi essendo quello il punto massimo, tutte le altre condanne vengono risucchiate verso l'alto, crescono. Dal furto, avete visto, l'abbiamo letto poco tempo prima dell'estate, il furto in appartamenti è stato portato a 10 anni, equivalente, anzi superiore alla condanna che si può ottenere per stupro. Questa è la giustizia italiana, questi sono i principi che guidano, cioè per loro, quelli che hanno in mano queste carte, il Parlamento, per i parlamentari italiani per esempio, e per quelle varie commissioni di giustizia, è più grave fare un furto in appartamenti che fare uno stupro a una donna. E questo, se non ditemi che non è un ritorno alla barbarie più cupa. Allora, 15:49, quindi stavolta la prima parte, ma perché il fatto questo qui del gas allo stativo è abbastanza nodoso, importante, quindi andava provato a spiegarlo, per quanto è, vedendo anche la miseria degradante del giornalismo italiano, che insomma si sono scatenati contro una norma, diciamo, di civiltà in qualche modo, no? di togliere, perlomeno se non per tutti in generale, togliere l'ostatività dell'ergastolo, cioè l'obbligo di uscire da morto e ricalcolare un po' queste cose, norme. Comunque, quindi la seconda parte sarà un po' breve, perché sono le 15:50, abbiamo solo 10 minuti. Le altre due volte abbiamo provato a dire, cioè la seconda parte è quella che si occupa di capire quali sono le tendenze della repressione e quindi del carcere, il sistema sanzionatorio, dove si sviluppa, come si muove. Intanto sappiamo che c'è in corso ancora gli stati generali dell'esecuzione penale, quelle messe su dal ministro Orlando con pomposità, ha fatto 18 tavoli divisi per argomenti, no? Uno si occupa dei colloqui, quell'altro della detenzione, della cella, tutte queste varie cose che ancora sono in corso e finiranno, mi pare, verso novembre. E vedremo che tirano. Ha messo allo studio tutti quelli che c'aveva, direttori, studiosi, criminologi, ma anche operatori, eccetera. Gli unici che non ha messo al lavoro sono i detenuti, e qui si sono arrabbiati i detenuti, hanno detto perché no. Però anche su questo il problema, i detenuti, un detenuto non è che è una oggi la popolazione detenuta non ha una voce univoca, ovviamente non sono organizzati, e ciascuno che parla a titolo individuale, che per carità va bene, ma soprattutto la gran parte delle voci che vengono dal carcere e giustamente dicono io voglio uscire, quindi non è che affrontano problemi critici sulla situazione del carcere in cui versa la popolazione carceraria, in cui si versa la repressione, stanno dentro e quindi vogliono uscire, per cui tutte le cose che dicono sono finalizzate a pur uscire a qualunque costo, in qualunque modo, purché si esca. Ed è umano questo, no? È chiaro, poiché ciascuno parte dai propri bisogni, per chi è recluso o reclusa il bisogno principale è quello di uscire, per cui non è tanto importante che diano la parola ai detenuti, casomai sarebbero più obiettivi gli ex detenuti, che possono dire qualunque cosa, perché la loro vita non dipende più da quelli che comandano, che hanno in mano le chiavi della cella, ma niente, non dipende da loro, e quindi potrebbero essere un po' più obiettivi. Comunque questa è la vicenda. Abbiamo detto già nelle due puntate precedenti che secondo quanto sta succedendo non solo in Italia ma un po' in tutta Europa, nel Nord America, in tutti i paesi del mondo, con più o meno accelerazione ci si sta muovendo per sostituire sempre più sistemi di controllo penale intramurario, ossia carcere, con controllo penale esterno, ossia con misure alternative. Questo sta avvenendo un po' ovunque, e soprattutto quelli che fanno teoria del diritto penale dicono che bisogna sviluppare questa situazione per tanti motivi. Il principale è quello che oggi conta di più, che tocca le tasche dei governanti, perché il carcere costa troppo e non produce nessun effetto. Il lavoro in carcere non è possibile, ma questo non è stato, tutto il Novecento ha dimostrato che il lavoro in carcere non è possibile, è sbagliato, non produce niente, e tra l'altro il carcere non è stato prodotto per produrre merci, per quello ci sono le fabbriche, gli opifici. Il carcere deve produrre proletari in grado di produrre merci disciplinatamente. Questo è il discorso. Il grosso dibattito che ci fu alla fine dell'Ottocento, quando molte amministrazioni penitenziarie, visto che avevano tutta sta gente lì che non faceva niente, li affittavano oppure li prestavano oppure li facevano lavorare per ditte esterne, che quindi li sfruttavano, li pagavano niente e facevano un sacco di soldi. Però qualcuno disse: guardate che sì, qui producete merci a poco prezzo, ci fate un po' di soldi, ma non è questo l'obiettivo. Il carcere ha come obiettivo non di produrre merci, per quello ci stanno appunto le fabbriche, si sviluppano, c'è tutto il sistema industriale, ha voglia a produrre merci. Il carcere deve produrre proletari che accettino di diventare produttori di merci in maniera disciplinata, seguendo gli ordini, non ribellandosi mai, accettando il misero salario, eccetera eccetera. Quindi costruisce ordine il carcere, non merci. Questo va, quindi non sarà mai il problema di dire nel carcere, sì certo nel carcere produce anche business come qualunque cosa, il capitalismo ha messo a profitto tutto quello che è esistente, l'acqua, però non è centrale quello per capire dove va il carcere, anche perché i profitti fanno sempre la costruzione, il carcere, le costruzioni delle carceri già sono sempre un profitto per ditte esterne, le fanno le ditte esterne, chiaramente. Ma il punto centrale del carcere è un po' un altro. Il problema è questo, già nel dibattito di parecchio tempo fa, 40-50 anni fa, cioè nell'immediato dopoguerra, il dibattito verteva sul fatto che il carcere ormai è obsoleto, ha prodotto quello che doveva produrre, cioè ha disciplinato, ha ammaestrato i proletari, l'obiettivo che dicevano, oltre quello appunto il carcere deve produrre proletari ossequiosi, rispettosi dell'ordine, che non desiderino la proprietà altrui, ancora di più che non mettano in discussione la proprietà altrui, cioè che non si diano a pratiche stralegali, e quindi accettino la loro posizione di poveri che possono vivere soltanto producendo per altri per un misero, in cambio di un misero salario. E questa cosa l'hanno raggiunta, perché in effetti non possiamo non dire che oggi tutte le persone che nascono nel mondo, 99% sono stati disciplinati ad andare a cercare un lavoro, poi se non lo trovano casomai sono costretti a fare attività stragali, ma prima cercano un lavoro in fabbrica, in un negozio da qualche parte, per dare in cambio la propria vita in cambio di un misero salario. Questa è la realtà, è inutile fingere. Purtroppo il carcere ha raggiunto il suo scopo, e allora dicevano: a che serve più? Ormai ha raggiunto lo scopo. Ma non solo, ma tante altre istituzioni oggi portano avanti quel processo di continuo disciplinamento, di continuo ammaestramento. Non serve più il carcere, per esempio la scuola, le religioni, le chiese, ma la famiglia, ma soprattutto i giornali, i media. Quanto i media sviluppano il processo di ammaestramento delle persone, altro che carcere, molto più i supermercati, i centri commerciali. E poi dentro di noi il movimento operaio ufficiale quanto tende a disciplinare i lavoratori, gli dice: voi dovete lavorare, perché se fate andare avanti il padrone andrà meglio per voi. Dice questo o no? Dice questo. E i principali sindacati, il movimento operaio ufficiale oggi dice questo, quindi convince la gente a essere disciplinata, ammaestrata, a produrre in silenzio, accontentandosi del misero salario, per far andare avanti l'imprenditore, ossia il padrone, in modo che gli mantiene in piedi il lavoro. Questo è il quadro. Quindi sono tante le strutture, le organizzazioni tese all'ammaestramento, al disciplinamento dei proletari. Non serve più il carcere, è servito il primo momento come botta, come trauma, per dire: o ti adatti a sta vita o te sbatto in galera e soffri le pene dell'inferno. E quindi non so, appunto. Poi il problema è un altro. Il Novecento è stato caratterizzato dai tumulti, ma anche la fine dell'Ottocento, insomma, comunque secondo periodo, cioè, grossi tumulti. Intanto scoppiavano tumulti, la povertà, la fame, la disoccupazione avvenivano in alcune zone, non dovunque, in alcune zone particolari, in alcuni territori particolari scoppiavano queste tumulti e rivolte. Ancora oggi i riot, qualche anno fa il riot di Tottenham molto grosso, 3.500 arresti, feriti, morti, o quello delle baglie francesi, che pure ormai c'è 6-7 anni fa ne sono scoppiati. Avvengono in alcuni quartieri particolari. E allora il problema centrale è portare il controllo in quei territori. Non ci interessa prenderne uno, il più focoso, il più cattivo, il capo, buttarlo in galera. A noi ci serve controllare la zona, il territorio. Questo è l'obiettivo. Perché che non l'abbiano fatto fino adesso è perché il carcere serve per la campagna elettorale, per acquisire voti. Se oggi una forza politica dice: io sono per il carcere, infatti questo, vedete che tutti i giornali l'hanno detto, non aboliamo il carcere stativo, più carcere, ci vuole più carcere, prendono voti, perché la gente è spaventata, indottrinata dai media e dice: io ho paura della mia proprietà, che poi anche chi non c'è niente, no? Anche chi c'ha 50 euro in tasca e due fettine di prosciutto c'ha paura che lo rapinano, e quindi vuole carcere. Quindi per questa cosa il processo è rallentato, adesso però è diventato indispensabile, necessario. Non sappiamo con che velocità si svilupperà, ma si svilupperà. Quindi in decremento del carcere, aumento delle misure alternative. Ma come verranno fatte queste misure alternative? E qui verrà il problema che affronteremo in piano la prossima volta. Le misure alternative non tese al reinserimento come erano una volta fatte, ma tese all'aumento e lo sviluppo del controllo.